Mamma mia, io non so che coraggio ci avete di commentare sta roba. Yeah, ascoltate questa, va. Madman e Jamie Tights. Secondo me è il liricista che manda a casa tutti gli altri liricisti. E quindi i finti liricisti neanche ne voglio parlare. Sto parlando di mio fratello Killa Cali, uno dei rapper che mi rende più orgoglioso di essere un rapper italiano. Qui dicono che non vado, mamma mia che bomba, che non posso stare sul palco. Quello che so è che intanto restano giù e io salgo. Devo essere l'unico, l'unico, l'unico. Devo essere l'unico, l'unico, l'unico. Devo essere l'unico, l'unico, l'unico. Devo essere l'unico, devo essere l'unico. Frate, devo essere l'unico, non ti giudico. Ti chiudi con problemi che non risolvi, ne dubito. A me serve fare i soldi e subito. Potrei avere modo di fare come mi pare, dammi 100 euro che li decuplico. Ma adesso fumo ancora fino a diventare subito e collasso fino ad avere le piaghe da decubito. Non mi serve il zinzotto, mi basta la voce e vi foto. Valgo come un lingotto, sul ring lotto, cadi di sotto. Sono un bicchiere di grappa, tu chi no? Della strada sbaglio l'imbocco, cerco l'uscita buona ad ogni rintocco. E ti sbrocco se mi dici che splendo di luce riflessa quando al collo. Non c'ho mai avuto un brillocco, con la voce ti sciocco. Come in testa una noce di cocco, prova a puttane l'aereo che piloto, come le buone intenzioni del G8. State uno sopra l'altro, Shanghai, come vanno le cose già sai. Se chiedo ai fratelli cosa pregano la notte per stare meglio rispondono Einstein. Qui dicono che non valgo, che non posso stare sul palco. Quello che so è che intanto restano giù e io salgo. Devo essere l'unico, l'unico, l'unico. Devo essere l'unico, l'unico, l'unico. Devo essere l'unico, l'unico, l'unico. Devo essere l'unico, devo essere l'unico. Io sono l'unico di un fatto di non poca importanza. Da quando l'ho capito davvero ho patito l'ansia. Cerco la palla col dito sulla risonanza della mia infanzia. Ricordo che ero in minoranza, troppo vicino a quell'ambulanza. Troppe le volte che sto di notte in partanza. A me le persone mi hanno deluso in massa. Appena posso sto chiuso in stanza. Troppo sensibile, gli altri volevano i soldi, io tutto lo scibile. Tu che facevi la corta nominide, io che pensavo alla morte d'Osiride. L'aspetto orribile quando sono lucido e riconoscibile. Mostro con kill e con gem, in più c'è la gente che strilla jetem. A 16 anni mi volevano muto e composto. Guardavo i grandi che facevano tutto l'opposto. Col tempo ho imparato bene che fra tutto un costo. Ma piuttosto mi butto di sotto, no, non mi butto a contatto stretto. Qui dicono che non valgo, che non posso stare sul palco. Quello che so è che intanto restano giù e io salgo. Devo essere l'unico, l'unico, l'unico. Devo essere l'unico, l'unico, l'unico. Devo essere l'unico, l'unico, l'unico. Devo essere l'unico, devo essere l'unico. Ehi, il capo del flow rallentato. L'ho inventato io, proprio io, Pippo Baudo. Sciacqua denti sui molari, mangia merda planetari. Un metro dietro ai miei fratelli che accendono i lampadari. Sono sempre impegnato ad alzare la fila e ti vedo indignato se cresce. Una volta ogni mille che vengo pagato per quello che meglio mi riesce. Fanculo i fricchettoni, polpastrelli contano sti bigliettoni. Buste di carta marroni. Adoro questi mongoloidi che ci odiano almeno quanto questi parassiti che ci copiano. In Italia è sempre una gara chi è più stupido. Basta guardare il tuo pubblico, se c'è da mandarvi a fanculo tutti, io voglio essere l'unico. L'aggiunta dei commenti per questo pezzo ve la disattivo io, porca puttana. Yeah, io direi che... ecco, 5 secondi di silenzio sono bastati. Vai!